Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 18 luglio, il sole in regione sorto alle 5.33, tramonterà alle 20.53. Sabato c'è luna piena e siete all'ascolto di Vita nei campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Rita Micoli. Da qualche anno sul fronte degli incendi boschivi le cose stanno migliorando, mentre si sta calando nella realtà regionale la nuova legge che in materia rafforza prevenzione e programmazione al posto dell'emergenza. Ne parliamo nel servizio di apertura per passare al corsivo di Enos Costantini, che ci parla di noci partendo dalla pseudo traduzione friulana di coccole. Si sta delineando il nuovo PSR, soprattutto nella sua parte economica, e per il Friuli Venezia Giulia ci sono buone prospettive. Ne parliamo nella rubrica delle normative, mentre in quella della frutticoltura oggi è la volta dei kiwi, pianta arrivata in regione negli anni 70 e che ha dato molte soddisfazioni. Ultima puntata oggi per la rubrica dei cambiamenti climatici, che fa un elenco di comportamenti virtuosi cui si dovrebbe uniformare anche il settore primario e chi lo frequenta per invertire la china pericolosa in cui ci siamo avviati. A seguire un servizio che da anni offre l'ARPA del Friuli Venezia Giulia con il suo osservatorio sui pollini, che può dare anche utili indicazioni per la gestione del mondo dell'agricoltura. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo per la settimana entrante e il proverbio friulano della settimana. C'è una nuova legge regionale, la 17 del 2019, che aggiorna teoria e prassi della lotta contro gli incendi boschivi. Interventi che fanno in capo alla regione e soprattutto al corpo forestale regionale. Ne parliamo oggi con Maurizio Butazzoni, maresciallo del corpo forestale regionale, che si occupa appunto di questi temi. Innanzitutto, come sta andando quest'anno? Sta andando bene, nonostante un periodo di aridità e di alte temperature che è avvenuto in giugno. Per adesso possiamo dire che siamo abbastanza fortunati. Quanti incendi e quanti ettari distrutti? Allo stato attuale abbiamo circa 23 incendi avuti dall'inizio dell'anno e una ventina di ettari bruciati. Paragonati con gli anni orribili passati? L'ultimo anno brutto è stato il 2013, che ha avuto dei grossi incendi. Insomma, ricordiamo quello della Varracolana. Quello della Varracolana, esatto. Quell'incendio lì ha avuto oltre 1.000 ettari di territorio bruciato e in totale quell'anno lì ha avuto 2.000 ettari circa. E poi c'era il famigerato 2003. È il 2003 che è stato uno degli anni peggiori. Come sta cambiando la filosofia di intervento con la nuova legge regionale? Ma la nuova legge regionale prevede la pianificazione, quindi l'aggiornamento del piano antincendio, che allo stato attuale era piuttosto vecchio, e diciamo che si sta cercando di abbandonare un po' la logica emergenziale, quanto piuttosto cercare di migliorare la prevenzione e anche la lotta attiva. Prima avevamo dato la colpa solo al clima, ma di mezzo c'è anche l'uomo. Sì, e comunque gli incendi di origine dolosa e colposa, cioè antropica, sono sempre la maggior parte. Diceva che il nuovo piano punterà appunto sulla programmazione più che sull'emergenza. Si vorrebbe programmare, intervenire anche sulla selvicoltura in modo da far sì che la gestione dei boschi preveda anche l'aumento della resilienza dei boschi, in modo che in futuro eventuali periodi ad alto rischio siano meno devastanti, diciamo. Inoltre si prevede anche un aumento della possibilità di usufruire di vasconi di acqua in quota in certe zone che allo stato attuale non sono coperte. E si sta studiando anche un bollettino per il rischio degli incendi boschivi? Sì, come già hanno fatto altre regioni, l'ideale sarebbe avere un bollettino basato su degli indici di pericolo. Tipo il bollettino Valanghe, che oltre a a dare delle indicazioni in base alle varie zone regionali, permette di attuare, di mettere in moto il sistema in modo da avere una maggiore capacità di intervento, una maggiore prontezza di intervento. Una pseudotraduzione dal friulano fa corrispondere il termine coccole alle noci e da Enos Costantini lo spunto per un corsivo in bilico tra i due termini. In friulano il noce si dice nuiar, venetizzato in nogaro, come in San Giorgio di Nogaro. Ma ora il nome più corrente è cocolar, dove il suffisso ar sta a significare che produce frutti chiamati coccolis, le coccole per l'appunto. A parte il San Giorgio sopradetto, altri paesi devono il nome al noce: Nogaredo di Corno, Nogaredo di Prato e Nogaredo al Torre. Tutti di conio veneto, perché il corrispondente italiano sarebbe noceto, ma non possiamo dire noceto al Torre. Il friulano, lingua ormai quasi morta, avrebbe Nearet e Nayaret. Non sono invece venetizzati due villaggi della Carnia, il Noiaretto di Comeglians e Noiaris di Sudri. Le attestazioni storiche partono dal 400, secolo nel quale egemona è menzionata una mizzina di coculis, cioè 20 litri di coccole, accanto a cioc di noiar, cioè ciocchi di noce. Mentre in documenti udinesi leggiamo breis sis di noiar per solz di sevot luna, o anche solz quindis per un nogaro. Quindi è documentato anche l'uso del noce in falegnameria. Durante l'ultima incursione in supermercato ho trovato coculis provenienti da California, Australia e Cile. A salvare l'onore dell'Italia, dopo sudate ricerche pur nell'aria condizionata, ho trovato le noci di Romagna. E mai ho tanto mentalmente apprezzato Raul Casadei. Nella bassa friulana ho visto degli impianti di noce e ora attendo il marchio delle coccole furlane DOC o DOP, sicuro che saranno gradite anche dai triestini. E veniamo ai miti. Sotto il noce le streghe fanno la loro tregenda, e chi passa sotto un noce può restare stregato, soprattutto di giovedì, quando le malefiche femmine si posano sui suoi rami. Pare che anche senza streghe, però, si rischi comunque una malattia. In compenso il frutto serve alle fate per nascondere dei doni magici. Le coccole, poi, servivano a ingrassare i polli d'India, volgarmente dindis, facendole loro ingoiare con tutto il guscio. Periodo di finissaggio, direbbe uno zootecnico, della durata di giorni 15. Poi il pollo d'India era pronto per la pentola. Dalla antropologia sappiamo che un tempo le ragazze da marito regalavano noci ai loro spasimanti più graditi. E mai il nome coccole fu più opportuno. Chiusa ormai la programmazione comunitaria 2014-2020, si apre una stagione nuova per il programma di sviluppo rurale della nostra regione. Facciamo il punto assieme a Marco Malison, responsabile tecnico-economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia. Come sappiamo, il quadro legislativo della nuova PAC 2021-2027 non è stato ancora completamente definito a livello comunitario. Le risorse sono state assegnate, ma gli Stati membri, Italia compresa, devono ancora elaborare i propri piani strategici. Per questo motivo la programmazione 14-20 è stata prorogata di 2 anni e di fatto nel periodo transitorio 2021-2022 i pagamenti diretti della PAC, le misure di aiuto dell'organizzazione comune di mercato e quelle del piano di sviluppo rurale funzioneranno con fondi nuovi ma con le regole vecchie, salvo alcuni aggiustamenti. Pare di capire che rispetto al passato ci saranno risorse in più. Beh, a dire il vero, rispetto alla programmazione 2014-2020 la spesa agricola nazionale avrà una contrazione di qualche punto percentuale. Bisogna dire però che per affrontare gli effetti economici negativi causati dalla pandemia Covid-19, l'UE ha messo a disposizione dello sviluppo rurale uno stanziamento aggiuntivo per il biennio 21-22 che per l'Italia vale circa 910 milioni di euro. Quindi su quante risorse potranno contare gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia? Per il periodo transitorio il nostro PSR disporrà di circa 106 milioni, una dozzina in più della dotazione calcolata in base al criterio storico di riparto. Sappiamo già a cosa saranno destinati? Poco più della metà saranno destinate alle cosiddette misure a superficie, cioè le misure agroambientali, l'agricoltura biologica, l'indennità per le zone Natura 2000 e le indennità compensative per l'agricoltura di montagna. Una trentina di milioni sono destinati a investimenti per la competitività delle imprese e per l'efficientamento dell'uso dell'acqua. Misure queste che saranno attivate anche tramite finanziamenti del fondo di rotazione. Significativo il fatto che più di 8 milioni e mezzo saranno destinati a incentivi per l'insediamento dei giovani in agricoltura. È tra gli ultimi arrivi e per anni è stata una vera manna per la frutticoltura regionale. Stiamo parlando dei kiwi. Il professor Raffaele Testolin ci parla delle caratteristiche, della storia e delle fortune di questi frutti. Originario della Cina, la sua coltivazione è iniziata in Nuova Zelanda nel secolo scorso grazie ad una suora neozelandese che viveva in Cina e che ha spedito dei frutti in patria. È arrivato in Corsica verso la fine degli anni 60 e in Italia le prime piantagioni risalgono all'inizio degli anni 70. Ettore Favot di San Quirino di Pordenone è uno dei pionieri di questa coltivazione. In base alla legge regionale del 2002, il kiwi da quest'anno può considerarsi specie autoctona, essendo coltivata in regione da 50 anni ed essendo, come recita la legge, integrata nell'agroecosistema del Friuli Venezia Giulia. È stata una coltura di successo che ha dato molte soddisfazioni economiche ai produttori per oltre 20 anni. Ora i prezzi sono interessanti, ma non creano più i paperon de paperoni che hanno creato nei felici anni 70 e 80. La coltivazione non è difficile. Quando si fanno gli impianti è necessario considerare che servono anche piante maschili per impollinare le varietà che producono i frutti e che hanno solo fiori femminili. Si alleva a tendone o a pergola doppia e la potatura è facile per chi sa potare la vite. Si eliminano tutti i tralci che hanno prodotto, sostituendoli con i tralci nuovi che partono alla base di quelli che hanno dato frutto. Ha bisogno di acqua ovviamente e non si può coltivare il kiwi senza un buon impianto di irrigazione, ma non bisogna dare acqua in eccesso, altrimenti si sviluppano malattie. Una delle operazioni critiche che determina il successo della coltivazione è la cura dell'impollinazione. Il vento porta un po' di polline dalle piante maschili a quelle femminili, ma non basta. Le api sono spizzinose perché non trovano nettari nei fiori di kiwi e quindi raccolgono un po' di polline, ma poi si stufano. Cosa fare? Non resta che impollinare a mano. A mano ovviamente se le piante sono poche, altrimenti ci sono delle macchine che aspirano il polline dai fiori e altre macchine che lo distribuiscono sui fiori femminili. Ci sono kiwi a polpa verde, gialla e rossa, o meglio bicolore gialla e rossa. Sul mercato si trovano piante di tutti e tre i tipi. Il rosso è il più ricercato in questo momento, è delizioso, viene pagato bene, ma è molto sensibile alle malattie. C'è poi, per gli hobbisti con poco spazio in giardino, anche l'Actinidia arguta, un kiwi che produce frutti delle dimensioni di un'oliva, verdi, si mangia tutto. Questi frutti si trovano nei supermercati come baby kiwi assieme ai piccoli frutti. Per chi volesse provare la coltivazione, le piante si trovano facilmente nei garden. Ricordo che anche qui servono maschi e femmine. E buona fortuna! L'agricoltura, ma un po' tutto il settore primario, è strategica per il futuro del pianeta e della nostra salute. Oggi Silvia Stefanelli percorre una serie di comportamenti virtuosi che dovremmo seguire se vogliamo invertire perlomeno l'andamento climatico che tanti pensieri ci dà. Oggi mi rivolgo a tutti voi ascoltatori, invitandovi a pensare al cibo e alle filiere agroalimentari in modo diverso, totale. perché l'agricoltura è molto di più di quello che mettiamo nel piatto. È il nostro paesaggio. L'alternanza di boschi e zone coltivate ha accompagnato per secoli l'umanità. Ora spesso però le terre alte, le aree interne, sono sempre meno abitate. Tuttavia anche nella nostra regione la ripresa di piccole coltivazioni, zootecnia di piccola scala nella zona di montagna stanno aiutando a diversificare il paesaggio e a presidiare il territorio, evitandone l'abbandono. Gli agricoltori diventano quindi dei veri e propri custodi di un territorio che altrimenti sarebbe destinato all'abbandono. L'agricoltura è anche la nostra salute, la qualità dell'acqua, dell'aria, del suolo, a cui tutti noi possiamo e dobbiamo interessarci, dove un'agricoltura sempre più intensiva può contaminare l'acqua, produrre gas serra e degradare la qualità del suolo, mentre un'agricoltura ispirata ai principi della biodinamica, dell'agroecologia, l'agricoltura biologica, puntano al mantenimento della qualità di questi elementi e della biodiversità. Vi invito quindi a frequentare i luoghi della produzione del cibo, se possibile anche a parlare con chi coltiva e conoscere i principi ispiratori. È un modo anche per interessarsi all'impatto degli obiettivi climatici che saranno sempre più ambiziosi, in particolare l'aumento del solare fotovoltaico che inevitabilmente cambierà il paesaggio agricolo. Vi invito a partecipare alla discussione su come e dove i parchi fotovoltaici saranno installati e al loro impatto sul territorio e sul suolo agricolo. È anche un invito a trasformare i consumatori a cittadini responsabili nelle scelte e nell'impatto che queste hanno vicino e lontano da noi, tenendo conto che scelte più o meno consapevoli e responsabili hanno anche, per esempio, sulla deforestazione in Sud America, in Africa, in Indonesia e Malesia. Infine invito tutti voi a immaginare come sarà il futuro dell'agricoltura, di quello che mangeremo. Ci ciberemo sempre di più di carne in vitro? Avremo dei prodotti alimentari con l'etichetta carbonica che misureranno l'impatto climatico? Diversificheremo la fonte di proteine con più insetti, proteine vegetali? Di certo il futuro della nostra alimentazione sarà molto diverso. L'ARPA, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, fin dal 2005 si occupa dei pollini. È un servizio soprattutto per l'allergologia, ovvero quelle persone che patiscono la presenza dei pollini, ma ci sono anche delle ricadute per il mondo dell'agricoltura. Oggi con la dottoressa Francesca Tassan, biologa dell'ARPA, che cura il monitoraggio dei pollini, parliamo appunto di questi due aspetti. Iniziamo con quello dell'allergologia. Ci sono quattro stazioni nella nostra regione che rappresentano i diversi aspetti meteoclimatici del territorio e quindi abbiamo Trieste, Tolmezzo, Pordenone e Lignano Sabbiadoro. Fate un bollettino ogni settimana. È disponibile sulle pagine del sito ARPA e anche sulle pagine del sito di Polnet, che è la rete nazionale delle agenzie che partecipano a questo monitoraggio pollinico. Questo per quanto riguarda l'allergologia. Poi invece ci sono le ricadute anche sul mondo dell'agricoltura. Cosa si riesce a capire dall'andamento dei pollini? Nella serie di pollini che noi, dei tipi pollinici che noi monitoriamo, ci sono anche quelli della famiglia del castagno, del faggio e della quercia, dalla cui abbondanza riusciamo a risalire alla possibile abbondanza dei frutti, no? E di conseguenza alla presenza, per esempio, la possibilità di attirare gli animali, sia piccoli roditori che i grossi animali che si nutrono, per esempio delle fagiole, che sono i frutti del faggio, di castagne e di ghiande, no? Pollini e frutticoltura e soprattutto la famigerata muffa nera. La muffa nera è l'alternaria, una famiglia molto numerosa di funghi, le cui spore sono presenti in atmosfera in quantità molto abbondanti proprio nei periodi della mietitura, del raccolto o della maturazione dei frutti. E generalmente sono presenti in abbondanza nella pianura friulana. Però adesso negli ultimi anni li troviamo anche a Trieste e anche lungo la costa, per dire. Quindi collaborate anche con l'ERSA. Sì, abbiamo spesso collaborato, no? Un'altra attività che noi svolgiamo è per esempio il monitoraggio dei pollini delle amarantacee. Sappiamo che l'amaranto è una pianta infestante, in particolar modo delle colture di soia, e in certi anni troviamo grande abbondanza dei pollini di questa pianta. Quindi i pollini come indicatore di un andamento non solo allergologico ma anche Per quanto riguarda l'agricoltura? Per quanto riguarda l'agricoltura o la presenza di infestanti, quindi gli ostacoli un po' dell'agricoltura e, diciamo, nel lungo termine anche dei possibili cambiamenti climatici. Con Amos D'Antoni vediamo ora l'andamento dei mercati agricoli. Mercato poco attivo, con prezzi stazionari. Venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 24,50 e 24,70 euro al quintale, IVA esclusa. L'orzo, peso specifico 62,65, tra 17,80 e 18,20, e il frumento tra 19,70 e 20,20. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 7,50 euro, il frumento di 3,20 euro il quintale. Contrattazioni attive all'ortofrutticolo di Udine con prezzi diversificati. L'insalata Gentile e la lattuga Trocadero vengono quotate tra 0,90 e 1 euro al chilo, IVA esclusa. Le zucchine tra 0,80 e 1,30. Le melanzane tonde tra 0,80 e 0,90. I cetrioli tra 0,60 e 1 euro. I pomodori in grappolo tra 1,20 e 1,30. I peperoni gialli e rossi italiani tra 1,50 e 1,70. La scalora riccia tra 2,50 e 2,60, il ricchio rosso tondo e quello di Treviso si quotano tra 1,80 e 2 euro, i meloni tra 0,80 e 1,50 e l'anguria tra 0,35 e 0,55. Nel settore della pesca, per le condizioni meteo favorevoli, i prezzi nell'ultima settimana hanno subito un leggero calo. Alla cooperativa pescatori San Vito di Marano Lagunare, i branzini suddivisi in piccoli, medi e grandi sono quotati da 25 a 34 euro al chilo, IVA esclusa. Le sogliole da 7 a 25, le manzancolle da 20 a 27, le seppie da 8 a 15, i calamari e i calamaretti da 25 a 28, le canocce da 5 a 15, le passere da 13 a 16 e i cefali da 2 a 9 euro al chilo. Mercato in ribasso pure nel settore dei foraggi per abbondanza di prodotti, il fieno Mazengo di pianura viene quotato da 12 a 12,50 euro al quintale, IVA esclusa, l'erba medica di prima qualità tra 17 a 17,50, mentre la quotazione della paglia di cereali pressata oscilla da 10 a 10,50 euro al quintale. E con il previsore dell'ARPA Osmer Sergio Nordio diamo uno sguardo al tempo che farà la settimana entrante. Luglio si è dimostrato finora abbastanza altalenante per quanto riguarda le temperature. Dopo aver presentato valori piuttosto elevati nella prima settimana, ci sono state in quest'ultima settimana diverse giornate un po' più fresche. Oggi, dopo la nuvolosità e le piogge dei giorni scorsi, ci sarà ancora variabilità, con la possibilità di qualche rovescio e anche di qualche temporale, visto che farà più caldo, mentre in quota ci saranno ancora correnti nordorientali a tratti umide e moderatamente instabili. Da domani affluiranno correnti un po' più secche in quota, che favoriranno giornate decisamente soleggiate e anche le temperature saliranno ulteriormente, con valori massimi in pianura intorno ai 32-34 gradi, sulla costa fra 30 e 32 gradi. L'affermarsi dell'anticiclone anche nei bassi strati sull'Europa centrale favorirà fino a mercoledì mattina un po' di borino sulla costa, che durante le ore più calde lascerà spazio invece ai venti caratteristici delle brezze. Sulla zona montana, dopo un lunedì abbastanza stabile, nei giorni successivi sarà probabile la formazione di nuvolosità pomeridiana, soprattutto sulle creste, con possibili locali rovesci temporaleschi. Nella seconda parte della settimana sembra permanere tempo stabile e caldo, tipico del periodo, con un possibile aumento delle temperature nel prossimo fine settimana, seguito poi da una successiva fase temporalesca. Ma come sempre, raccomandiamo di seguire costantemente l'aggiornamento delle previsioni. Termina qui la puntata, vogliamo lasciarvi con il proverbio friulano, da Sante Cristine plui fasui che vuaine, ovvero a Santa Cristina il 24 luglio più fagioli in frutto che bacelli, valido soprattutto per le tegoline. Coordinamento tecnico di Marco Rasi, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Rita Micoli e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.